tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate. Ed eccoci qua, come promesso, quindi pochi minuti fa ritorniamo in diretta da Radio Wombat di Firenze, però stavolta iniziando appunto il programmato Ponte Radio. Quindi oggi venerdì 30 maggio appunto stava a noi, la sigla continua a essere la sigla vecchia, ci scusiamo, in realtà ci siamo evolute da diverso tempo ormai, le radio sono non più 4 ma ben 7, quindi giustamente le ricordiamo: Radio Onda Rossa, Blackout, Spore, Wombat, noi, Quar, Neanderthal e Eustachio, quindi sempre bene sapere quanto queste onde sonore si stanno spandendo nel territorio italiano. E, che dire, quindi iniziamo questa diretta. Allora, premetto che ci sono stati degli inconvenienti tecnici, per cui probabilmente l'ordine delle cose di cui andremo a parlare è cambiato, però non importa, i contenuti ve li passiamo lo stesso. Dunque, oggi siamo a parlare di eolico in particolare nell'Appennino, nel Mugello, quindi una parte delle montagne appunto toscane, e lo facciamo con più voci, più appunto interventi. Intanto qui in regia abbiamo per ora una persona, ma ne dovrà arrivare un'altra, per quello vi dicevo di inconvenienti tecnici. E quindi appunto per ora qui abbiamo Alessandro Bottacci, ex direttore del Parco delle Foreste Casentinesi, e non solo, questa è una presentazione un po' scarna, ma limitiamoci a questo, e, che ci parlerà specificatamente del suo ambito, quindi di foreste, proprio perché appunto l'eolico nel Mugello si dovrebbe andare a inserire proprio in un contesto forestale. Vogliamo fare magari un'introduzione leggermente più specifica del tema? Sì, buonasera a tutti e poi un grazie per ascoltarci in questo momento. Stiamo in qualche maniera cercando di interessare più persone possibili sulle distruzioni che stanno avvenendo sul crinale mugellano, sul crinale tosco-emiliano, perché stanno realizzando una serie di grandi pali eolici che supereranno i 200 metri di altezza, ma per arrivare lassù in cima dovranno demolire le montagne, dovranno demolire i boschi che ora li ricoprono. Per cui è anche un invito da parte di tutti quanti di rimanere, diciamo, attivi in difesa di questi luoghi, di questi luoghi particolari che sono i crinali delle montagne, perché questi crinali sono un punto molto importante, molto particolare, perché collegano delle zone con altre zone. Quindi questo collegamento rende più forte gli ecosistemi. Andare a distruggere questi crinali vuol dire effettivamente indebolire tutto il sistema ambiente. Perfetto, quindi questo è già un quadro che ci aiuta appunto a entrare in questo argomento. Allora, io direi di in realtà mettere un primo pezzo musicale e poi iniziamo la nostra scaletta di oggi. A tra poco. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Down by the riverside. Yeah. Down by the riverside. I'm gonna lay my sword and shield down by the riverside. I'm gonna study war no more. War no more. I ain't gonna study war no more. I'm gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I ain't gonna study. I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. down by the riverside. Yes. I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. I'm gonna study piene di pagine coperte già da cento strati di polvere. Se solo si trovasse il modo di leggerle, chissà quante domande potremmo rispondere. Poi ci sono sette strade che dormono coperte già da mille strati di cenere. Se si trovasse il tempo di ripercorrerle, chissà quante scoperte avremmo da compiere. Noi restiamo qui così, come se già non ci servisse più la storia, non ci volesse più memoria, come se il mondo fosse soltanto materia. Restiamo qui così, se questo che vuoi, senza vedere mai oltre quel poco che hai, accontentandoti sempre di quel poco che sai, soltanto di quel poco che sai. Non sfottermi. Vedesse il figlio di Atlantide, vedrebbe case grandi e piccole anime, ci troverebbe streppi in piccole formule, lontani dal bisogno di liberarcene. Poi se ritornasse l'uomo di Neanderthal, magari impazzirebbe davanti a una Simmental, magari ammirerebbe i miei i fiori di plastica, ma se mi domandasse davvero il senso che ha, io sarei qui così come se già non mi servisse più la storia, non ci volesse più memoria, come se il mondo fosse solo materia. Ed eccoci qui che finalmente torniamo in voce per entrare proprio nel vivo di questa puntata dopo questo stacchettino musicale. E allora abbiamo ricevuto qui in regia la seconda presenza di oggi, qui presente in regia appunto, Valeria, che ci parlerà. Direi che possiamo passare a lei la parola per iniziare appunto entrare nel vivo di questa puntata riguardo all'eolico nel Mugello, che ci parlerà appunto della faccenda, della vicenda, quando è iniziata, quando è stato magari presentato, proposto il progetto e poi come è andata avanti per arrivare a capire a che punto siamo oggi effettivamente. Buongiorno a tutti. Ok. Io sono la voce del crinale del Monte Giogo di Villo Reccorella. Prova a stare un pochino più vicino al microfono. Sto più vicino, ecco. Sentite bene? Vai, meglio. Meglio? Ok, allora, la voce del Monte Giogo di Villo Reccorella si deve sentire forte e chiaro. L'attacco alla mia persona è iniziato, diciamo, nel 2019, è stato cominciato a presentare questo progetto in maniera molto, direi, soft, illustrato dai proponenti, dalla ditta proponente di questo progetto, come una cosa molto ganza che ha subito comunque svegliato l'attenzione delle amministrazioni comunali, che l'hanno trovato proprio una, come dire, l'hanno quasi accolto con un senso di riscatto verso questo povero Mugello, così bistrattato, una terra così povera, così depopolata, così priva di interesse. Cioè, la terra del Giotto e dell'Angelico, un percorso amato da Goethe, amato da Dante, amato da Campana, comunque, vabbè, non aveva attrattive. Allora ci si piazza sopra un bel impianto eolico. Allora la cosa è cominciata così, fra l'altro nell'inverno 19-20, penso che qualcuno se lo ricorderà, è scoppiato un po' un pandemonio, per cui ci siamo trovati chiusi in casa, ci siamo trovati con un sacco di limitazioni, devastati anche da una paura, no? E quindi diciamo che tutto quello che poteva magari essere fatto anche a livello di interfacciarsi, a livello di capire meglio come stessero le cose, a livello di vedersi tra la gente, era un po' impedito, è stato un po' impedito, e di questo credo che ne sia stato approfittato abbastanza. Comunque le cose, viene presentato questo progetto e che cosa succede? Succede che questo progetto chiaramente copre praticamente la presentazione di questo progetto tutto l'anno 2020 e anche gran parte del 21, perché il progetto è veramente faraonico e il trucco un po' anche della ditta proponente è stato quello di proporlo a pezzettini, no? Cioè di suddividerlo in tanti pezzettini che potessero piano piano essere fatti digerire in maniera quasi innocua, quasi senza accorgersene. E succede che appunto viene indotta dalla una conferenza dei servizi, raccogliendo appunto questo progetto, tutti i vari aspetti di questo progetto, e mentre arrivavano anche tutta una serie di osservazioni a questo progetto, che è veramente faraonico, cioè migliaia e migliaia di pagine. E quindi tutti coloro che potevano avere qualcosa da dire su questo progetto si sono comunque fatti sentire, sono arrivate molte osservazioni, no? E quindi la ditta proponente si è data da fare per rispondere un po', per vedere di mitigare, ecco, quello che poteva sembrare veramente improponibile. Per esempio, la grossa concessione da 8 aerogeneratori sono diventati 7. E poi hanno promesso che facevano questo, che facevano quello, sull'altezza, il monitoraggio della fauna selvatica, perché premetto che lì in quella zona è stata accertata la presenza di diverse specie anche protette, sia a livello europeo che a livello regionale. E quindi che dovevano essere monitorate, hanno promesso questo monitoraggio e così via. E quindi va bene questo progetto, diciamo che avanza, comunque non senza resistenze, ovviamente. E a un certo punto arriva che la regione approva questo progetto con un decreto. Lo approva ritenendosi soddisfatta dall'esito delle promesse fatte da questa ditta proponente. Cosa che non è andata giù al Ministero della Cultura, che si è opposto, e dopo pochi mesi, verso settembre 22, se non ricordo male, è arrivato il colpo di grazia. Il colpo di grazia dal Consiglio dei Ministri, dichiarava non vincolanti i pareri contrari, che in realtà una volta erano vincolanti, vale a dire quello della Sovrintendenza delle Belle Arti e quello del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e ha ritenuto, insomma, tutto questo non vincolante. Nel frattempo la ditta proponente si era premurata anche di chiedere la pubblica utilità, proprio la certificazione di fare quest'opera per pubblica utilità. Aveva già provveduto all'analisi parcellare per cominciare a chiedere gli espropri. E quindi si arriva a questa delibera della giunta regionale che respinge tutto, cioè accoglie, diciamo, l'indicazione da parte del governo, del Consiglio dei Ministri. E quindi si arriva a questo punto al ricorso al TAR. Ricorso al TAR che è stato presentato con l'aiuto, il sostegno, la collaborazione di tante piccole, grandi realtà, privati, imprenditori della zona, imprenditori agricoli e altro, che hanno sostenuto Italia Nostra e il CAI, a presentare ricorso, e questo un ricorso ulteriore è stato portato avanti dal comune di San Gaudenzio, che era unico dei comuni della zona, unico dei comuni interessati a essere contrario al progetto. Ecco, scusa, ti interrompo. A proposito di questo, quali sono, a parte San Gaudenzio, i comuni interessati al progetto? Vicchio e Dicomano. Ok, quindi questi Dicomano in maniera preponderante per tutta la viabilità di accesso, di gestione, di trasporto, perché potete immaginare che si tratterà di mezzi eccezionali dalla lunghezza di 70 metri, che dovranno arrivare a 1000 metri di altitudine, con il carico di questi pezzi enormi e con un sacco di altri mezzi pesanti che dovranno portare il materiale per il cantiere, vale a dire tondini, cemento e quanto altro, acqua, se ancora non si è capito bene da dove la prenderanno, ma dice che la portano loro, vabbè, mi auguro. E niente, e questo è un po'. Il comune di Dicomano ospiterà una delle pale, la prima, mentre le rimanenti ricadono nel comune di Vicchio. Okay. E l'ultima, fra l'altro, in particolare, che ricade sul comune di Vicchio, va a interessare, è una cosa molto pesante, chiaramente anche le altre, comunque ci sono reticoli idrici sottostanti a queste piazzole, che poi vi spiegherò come è, magari nella una parte successiva, sì, dove sì, vi darò un po' di numeri. in che cosa consiste una piazzola per l'installazione di una pala eolica. E parlo magari di quella che conosco meglio, ma ci sono altre aree interessate a questo problema. E quella nel reticolo del Solstretto. Il Solstretto è è un semplice torrente, ma con una rete anche molto superficiale. Oltre alle vene più profonde raccoglie l'umidità e l'acqua prodotta da una vera e propria zona umida. Tant'è vero che è un habitat in cui sono state trovate delle specie protette, fra l'altro bioindicatori di elevata qualità dell'acqua. Infatti l'acqua del Solstretto è proprio classificata come di qualità elevata. Quest'acqua contribuisce, è il maggior contribuente dell'acquedotto pubblico del comune di Vicchio. Quindi quello che succederà a questa acqua succederà a tutti gli abitanti di Vicchio. Quindi, già stiamo iniziando a avere, sì, a capire come mai. Avere un po' un sì. quadro. Quindi appunto ripartiamo magari con, diciamo, l'excursus cronologico. Esatto, per allora riparto concludere. Proprio da questo excursus cronologico, che è complessissimo. È complesso perché è complesso il progetto stesso ed è stato complessificato apposta proprio per renderlo il più delle volte impenetrabile. Non so come spiegarmi meglio. In queste sacche di complessità si possono infilare delle scorrettezze, ok? Quindi poi correggimi se sbaglio, ma usare la burocrazia usare il rimpallo di competenze, usare il detto ma non detto, cioè qui per esempio faccio un esempio per tutti e poi riprendo un po' la cronologia. Autorizzazione sismica: il crinale del Mugello è classificato zona sismica elevata, molto alta, zona 2, pericolosità sismica molto alta, 2, ok? Quindi qualunque cosa tu faccia ci vuole l'autorizzazione sismica, ok? Lavorando però su un reticolo stradale, almeno all'inizio, la ditta proponente ha potuto esimersi dal richiedere la valutazione, l'autorizzazione sismica. Quindi sta andando avanti tuttora in assenza di autorizzazione sismica. È perché tanto mica ancora ce n'abbiamo bisogno. Così questi intanto stanno disboscando chilometri e chilometri di foresta, facendo strada, ricementificando, provocando frane e tutto quanto, e per poi quelli che gli dovranno dare l'autorizzazione sismica diranno: ma ormai danno le belle fatto, te la do. Quindi questo è un po' il principio. Ok, quindi eravamo rimaste alla partenza di questo ricorso al TAR. Fatto dal comune di San Gaudenzio, dicevi? Uno dal comune di San Gaudenzio e uno da Italia Nostra e CAI. Ok, quindi nel frattempo la ditta, questo accade appunto all'inizio del 23, iniziano già i lavori. Anche questo, insomma, ma comunque vabbè, iniziano i lavori e nel frattempo cominciano anche da parte di associazioni, singole persone che osservano le cose, le vedono, le segnalano, no? Quindi cominciano ad arrivare segnalazioni di prelievi abusivi di acqua, segnalazioni di presenza di specie protette, segnalazioni di tagli fuori dall'autorizzato, segnalazioni di cattiva gestione dei materiali di risulta dagli scassi, perché questi cominciano a scassare, considerando che la presenza di sentieri CAI, nome per tutti, il sentiero 00, il sentiero principale, la spina dorsale dell'Italia, no? e un sentiero, anche il sentiero Europa 1, quindi un sentiero proprio di valenza europea, oltre agli altri vari sentieri, il 12, il 16, insomma, ora non li ricordo tutti, che sono sentieri. Al massimo ci può passare la jeep per portare un soccorso se c'è bisogno, al massimo, no? Dovranno diventare delle piste larghe 7, 8, 9, 10 metri, quanto c'è bisogno per far transitare i mezzi eccezionali. Quindi vanno riprofilati i versanti, va disboscato, sì. Va cementificato. Un impatto paesaggistico, non solo paesaggistico. Ricordo che è capitato che a una nostra manifestazione in Piazza del Duomo sono stata avvicinata dal giornalista di Rai 3. E infatti hanno mandato poi un servizio e chiedeva che cosa ne pensavo e io ho detto non si tratta soltanto del paesaggio, si tratta di sicurezza, proprio la sicurezza degli abitanti, la sicurezza delle valli sottostanti. È stato l'unico pezzettino che poi hanno mandato in onda, no, dell'intervista che mi hanno fatto, però proprio parlavo volevo ribadire sulla sicurezza, cioè sul fatto che si tratta di una vera e propria devastazione che compromette la sicurezza dei territori a chilometri e chilometri di distanza. E vi darò dei numeri anche su questo dopo, nella seconda parte. Allora, la storia di questo ricorso. Quindi, nel frattempo, come ci siamo attivati noi? Informazioni, assemblee pubbliche, abbiamo cominciato a mettere su una mostra fotografica che la portiamo in giro negli eventi, appunto, che organizziamo, facciamo vedere alle persone che cos'era e che cosa sta succedendo adesso e che cosa succederà in futuro e se questa cosa malauguratamente va avanti. Nel frattempo i nostri amministratori a livello regionale continuano ad avere in bocca sempre gli stessi ritornelli, che è un progetto di assoluto valore. Dove trova il valore in questo progetto noi ancora non l'abbiamo capito, e il fatto che il paesaggio comunque è fatto dall'uomo e bisogna essere disposti a modificarlo un po' per poterlo proteggere, e questo è quanto. Comunque noi intanto nel frattempo ci siamo mossi, abbiamo in attesa fiduciosa compresa una veglia, abbiamo fatto una veglia in piazza Santissima Annunziata proprio alla vigilia della udienza del TAR Toscana, il quale TAR Toscana un mesetto dopo ci ha risposto picche, ha respinto il ricorso di San Gaudenzio per motivi di merito, mentre il ricorso di Italia Nostra e CAI è stato respinto, è stato nemmeno aperto per vizio procedurale. E quindi poi è stato, questo accadeva nel gennaio del 24. Okay. E quindi a questa sentenza del TAR Toscana è stato deciso da entrambi i ricorrenti di fare ricorso. C'è stata un'udienza il 27-17, non ricordo bene, comunque in febbraio di quest'anno, e stiamo ancora attendendo risposta a questi ricorsi al Consiglio di Stato. Quindi a questo punto, se ho capito bene, solo uno dei due ricorsi, quello di San Gaudenzio, perché l'altro non è stato aperto? No, tutte e due. Ricorrere, si può ricorrere anche contro la mancata accettazione. Cioè era un ricorso veramente articolato e complesso, con 21 punti, mi sembra, fondamentali, presi sotto esame, con moltissima documentazione alla quale abbiamo contribuito anche noi come Comitato Tutela Crinali Mugellani, Crinali Liberi, abbiamo contribuito con del materiale, delle relazioni, insomma sostegno per tutto quello che abbiamo potuto. Certo, questo è un po' la storia. Poi quello che magari in un'altra tappa si può parlare di quello che facciamo proprio noi come, okay, come contributo. Come comitato, di cui tra l'altro non abbiamo ancora detto il nome, ma non volevo interromperti. Comitato Tutela Crinali Mugellani, Crinali Liberi. Perfetto, grazie. Quindi. Sì, magari facciamo una breve interruzione e poi ripartiamo. Eccoci qua, siamo sempre qua col Ponte Radio, Radio Wombat da Firenze. Tra l'altro vi dico, anzi non l'avevo ancora detto, il link del PAD, che è un foglio di testo condiviso da cui accedete tramite il browser col link direttawombat.vado.li. Lo potete usare per chiacchierare con noi, farci domande, riflessioni, osservazioni, quello che volete. Mi raccomando, non esitate a scrivere. Ripartiamo quindi sempre con Valeria dal comitato e che appunto magari ci informa sulle iniziative che in questo momento state portando avanti appunto in questa lotta. Allora, grazie. E, dunque, ripeto il nome, il nostro nome, noi per gli amici siamo Crinali Liberi, il nome completo è Comitato Tutela Crinali Mugellani, Crinali Liberi. Aderiamo alla coalizione TES, Transizione Energetica Senza Speculazione, fin dalla sua fondazione a settembre dell'anno scorso, e che è appunto questa coalizione che intende portare avanti una pulizia, proprio una pulizia etica, evitando la sopraffazione degli speculatori che si sono subito buttati su questa marea di incentivi disponibili per la transizione energetica. Il TES ha diverse anime, ovviamente, magari chi si occupa di più di eolico, chi si occupa di comunità energetiche rinnovabili, chi si occupa, ci sono fra di noi anche, proprio tra di noi, personaggi molto più radicali, di cui io per dire sono una rappresentante, ma in questo momento io vengo a titolo generale, e poi magari aggiungeremo qualche cosa se ci sarà tempo. E cosa abbiamo fatto in questi anni noi come comitato? Abbiamo svolto proprio numerosissime attività di informazione, sensibilizzazione e contrasto al progetto, organizzando assemblee, sopralluoghi, mostra fotografica, presidi, eventi congressuali, alcuni hanno avuto anche un notevole successo, petizioni e sottoscrizioni online e in cartaceo, sia con le nostre forze, sia coordinandoci con altri comitati per le montagne toscane che a vario titolo sono un po' tutte sotto attacco speculativo, no? Basti pensare per esempio alle Alpi Apuane. E abbiamo prodotto articoli, lettere aperte, comunicati stampa, documentazione fotografica e tecnica, sostenuto e intrapreso segnalazioni e azioni legali, tra i quali appunto il sostegno al ricorso del TAR, che al momento è appunto in rivalutazione da parte del Consiglio di Stato. E come comitato abbiamo depositato in procura 3 esposti. Il primo per disastro ambientale, il secondo sulla dubbia convenzione stipulata dai comuni di Vicchio e di Comano e il proponente, poi se è il caso, ma se no lo dico subito perché è troppo importante. I comuni di Vicchio e di Comano hanno accettato soldi in cambio della promessa di non ostacolare in alcun modo i lavori, anzi di aiutare la ditta proponente nell'espletazione della documentazione necessaria per gli espropri. Non so quanto questo sia legale e corretto. Sì, e poi appunto è proprio la dicitura che mi ricordo me l'avevate letta, è proprio quella dicitura lì scritta che loro hanno accettato. Cioè sì. Non possiamo ostacolare le attività di Sisi. Esatto. Non mi ricordo. Ci impegniamo a non ostacolare. Esatto. Ci impegniamo a non ostacolare. Senza nemmeno fare riferimento a costruzione invece piuttosto che manutenzione, o proprio in generale. Sì, in generale, qualunque attività connessa a non ostacolarla. Mentre invece il ruolo delle amministrazioni comunali sarebbe quello, avendo la legale responsabilità della sicurezza del territorio e dei loro residenti, dovrebbero avere pieno accesso a tutto quello che succede e vigilare. Questi hanno rinunciato. Il terzo esposto invece riguarda una frana in particolare che si è verificata recentemente, se ne stanno continuando a verificare anche una dopo l'altra lungo il percorso di questi lavori, e questa in particolare interessa il decorso del metanodotto. Okay. E quindi si aggiunge complicazione a complicazione, no? Mm-hmm. E quindi comunque il discorso di queste frane che stanno continuando a verificarsi sia per i lavori di scasso che per i lavori di disboscamento taglio a raso, che in montagna non si fa mai praticamente il taglio a raso. Si fanno sempre diradamenti o quantomeno si lasciano le matricine, ma qui vengono proprio tolte le ceppaie. E quindi è chiaro che alla prima bussata d'acqua viene giù tutto. Ok, perfetto. Grazie quindi di questa panoramica. Ancora un piccolo stacco musicale e poi invece ripartiamo cambiando voce. A tra poco. Thank you. Ed eccoci qui dopo questo stacchettino musicale. Ricordo giusto il link del pad, direttawombat.vado.li, se avete voglia di scriverci. A proposito di questo, leggo una domanda che ci hanno posto. Per come viene presentata la situazione nel Mugello, comprendo la voglia di bloccare i lavori. Le associazioni propongono qualcosa per portare avanti un progetto eolico più rispettoso? Ecco, stavamo esattamente parlando di questo fuori dai microfoni. E questo argomento ce lo riserviamo però per l'ultima parte della puntata, quindi ora in realtà diciamo ne parliamo dopo, comunque la risposta è sì di base. Ok, allora passerei la parola a Alessandro Bottacci, se vuoi ti puoi fare una piccola presentazione, scusa, e per poi appunto illuminarci riguardo a una questione ambientale ecologica proprio delle foreste che sarebbero impattate. Bene, ciao a tutti, io sono Alessandro Bottacci, sono stato direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e proprio quando ero direttore ho dato il mio parere negativo a questa attività, a questo progetto. Nel mio lavoro, che faccio ormai da 41 anni, e faccio il forestale, ho sempre lavorato sulle foreste. Però è ancora più importante cercare di far capire quanto sia grave l'impatto che questo progetto svolge in un ambiente che è un ambiente particolarmente delicato, perché i crinali sono degli ambienti importantissimi dal punto di vista ambientale, primo perché sono zone meno frequentate, meno antropizzate, e quindi diventano anche dei punti di rifugio di tanti animali, di tante specie animali e vegetali che invece non riescono a vivere in un ambiente antropizzato come quello del fondovalle. Poi hanno una grandissima importanza dal punto di vista di collegamento, cioè sui crinali si creano i collegamenti tra un territorio e un altro, tra una zona e un'altra. E per esempio dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi gli animali si possono irradiare e diffondere proprio utilizzando la via dei crinali. Quindi in questa maniera, quando si va a devastare, come stanno devastando e come dovranno devastare ancora di più in futuro, il crinale, la situazione diventa molto molto pericolosa dal punto di vista ambientale. Poi i nostri crinali mugellani sono ricoperti da bosco. Ecco, una cosa che ci tenevo a dire è che il bosco non è un semplice insieme di alberi, non sono tanti alberi che sono presenti in un determinato territorio. Il bosco è un ecosistema complesso che comprende certamente l'albero, certamente la vegetazione, ma anche tutto un corteggio di specie che vivono all'interno di questo ecosistema. La cosa più importante è che il bosco, l'ecosistema forestale, cresce, migliora e diventa più forte col tempo. Più il bosco viene lasciato indisturbato e migliore è la sua qualità. Contrariamente a quello che si pensi, no? Spesso si dicono bisogna intervenire sul bosco per migliorarlo, per fare... No, è proprio il contrario. Cioè i boschi non disturbati dall'uomo diventano più forti e i boschi più vecchi diventano più forti. Perché? Perché tutto la forza delle foreste sta nelle connessioni. Queste connessioni tra gli alberi, certamente, ma anche tra gli alberi e le altre specie che vivono in questo ecosistema. E perché ci siano una maggiore quantità di collegamenti tra questi organismi che vivono in un determinato ecosistema, ci vuole ancora una volta il tempo, e poi ci vuole un'altra cosa, lo spazio. Bisogna che non può esistere un ecosistema forestale sano se noi abbiamo delle porzioni di bosco piccole, delle porzioni di bosco separate da zone devastate, separate da zone denudate, separate da zone cementificate. Ecco, quando le foreste sono separate, in gergo si dice frazionate o frammentate, quando queste foreste si separano, diventano più deboli e diventano anche più suscettibili, per esempio, al cambiamento climatico. Allora, noi abbiamo un crinale che, al fatto che è stato sostanzialmente abbandonato dall'attività umana negli ultimi 100 anni, ha ricostituito un ambiente molto molto complesso e molto efficace. Questa situazione invece noi la stiamo di nuovo rialterando, indebolendo le foreste. Le foreste sappiamo che svolgono delle attività e forniscono dei benefici. Il primo beneficio è quello di produrre l'ossigeno, ma questo lo impariamo anche alle elementari, no? Assorbiamo l'anidride carbonica e produciamo l'ossigeno. Ma la cosa ancora molto importante è l'effetto sul clima. Sul clima, per esempio, le foreste hanno la capacità di aumentare la disponibilità idrica nell'atmosfera, la quantità di umidità dell'atmosfera, e quindi generare piogge, generare acqua dolce, e poi hanno la possibilità, hanno proprio tra le sue funzioni, tra le sue benefici, cioè tra i suoi benefici, quella di regolare la temperatura. Noi siamo in un periodo in cui la temperatura media del mondo sta salendo notevolmente, siamo arrivati quasi a 1,5 gradi rispetto alla media preindustriale, e questa crescita porta a molte, molte complicazioni e conseguenze negative. Le foreste hanno questa capacità di regolare la pioggia e di regolare la temperatura. Poi svolgono una funzione fondamentale nella lotta al dissesto idrogeologico. Per esempio, le foreste, e in particolare il suolo forestale, che è una delle cose più importanti e forse anche più sconosciute. Il suolo forestale è un suolo profondo, è un suolo attivo, perché nel suolo ci sono tantissimi organismi e c'è tanta sostanza organica nel suolo che raccoglie e trattiene l'acqua. Il suolo forestale è un suolo permeabile, poroso, quindi la pioggia che arriva in gran parte viene assorbita da questo suolo e va a rimpinguare le sorgenti, le falde freatiche. Quando noi eliminiamo le foreste, soprattutto nella zona dei crinali, iniziano due fenomeni negativi. Il primo è l'erosione e il dissesto idrogeologico, cioè iniziano le frane, inizia l'erosione del suolo. Il suolo forestale, una volta scoperto, viene demolito, perde la sua integrità e anche la sua funzionalità. E in più abbiamo una perdita della conservazione dell'acqua dolce. Non dimentichiamo che l'acqua dolce nel mondo è una porzione piccolissima rispetto all'acqua totale che è presente nel pianeta, e quindi noi stiamo tagliando gli alberi, col tagliare gli alberi, eliminando le foreste e disturbandole, noi stiamo diminuendo la quantità di acqua dolce nel terreno e quindi nei torrenti, nei fiumi. E noi sappiamo che non possiamo vivere senza acqua dolce. Quindi salviamo le foreste, certamente, anche per il paesaggio, benissimo, però le salviamo anche per tutta questo mondo, la biodiversità che è sostenuta dalle foreste, la lotta al dissesto idrogeologico, la conservazione dell'acqua dolce. Gli interventi, e concludo, che stanno facendo in maniera proprio scellerata sul crinale mugellano va proprio in una direzione opposta a quella che abbiamo detto adesso. Cioè, non può essere, siamo nel territorio di Don Milani, dove il motto di Don Milani che aveva scritto nella sua aula era I care, cioè mi faccio carico delle cose, e mi sembra che ora piuttosto si stia più tornando a quello che invece veniva detto nel ventennio, me ne frego. Ecco. Senti, allora mi viene da farti un po' una domanda, proprio perché ci hai spiegato che le foreste vanno protette, sarebbe bello anche incentivate, quindi lasciate aumentare. Ti vorrei chiedere se ci fai un po'... Se ci dici qualcosa riguardo alla qualità delle foreste, perché altre volte ho sentito i tuoi interventi a riguardo, per esempio parlavi del fatto che una foresta può essere misurata in vari modi, quindi io posso dire sì, c'è tot chilometri quadri di ettari, come si misura insomma di foresta in una certa area, però cosa significa questo a seconda di che foresta è, magari avrà delle conseguenze appunto più forti o meno forti riguardo ai vantaggi di cui parlavi. Sì, certamente in genere chi parla di foreste parla secondo una dimensione bidimensionale, cioè parla di ettari. Ci sono tot ettari, addirittura nei proclami, diciamo, ufficiali si declama il fatto che gli ettari di bosco siano aumentati, eccetera, eccetera. Ma noi sappiamo che la superficie da sola non ha un significato bassissimo. Noi dobbiamo capire che una foresta è un ecosistema forestale, è una struttura tridimensionale, cioè c'ha sì una lunghezza, una larghezza che si misura in ettari, ma anche ha un'altezza che è data dall'altezza degli alberi e una profondità che è data dalla profondità delle radici. Allora, col tempo indisturbato, queste foreste crescono. Pensate che le foreste italiane sono in media alte 14 metri, la media italiana è di 14-15 metri. Le foreste delle riserve del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sono 30 metri, 35 metri, sono più di due volte e mezzo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è più spazio biologico, c'è un maggiore spazio biologico che permette la vita a un maggior numero di specie diverse, perché ognuno trova in questo ambiente più vasto, anche dal punto di vista appunto di spessore, trova la nicchia ecologica più adatta a sé. E quindi più le foreste sono lasciate indisturbate, più queste crescono in volume e anche in quantità di materiale di legno vivo, e maggiore è il numero delle specie che possono sostenere, capito? E quindi purtroppo tutti gli interventi che stanno facendo, purtroppo non solo sul Gioia di Villore, ma anche in tutta la Toscana, perché la Toscana i boschi della Toscana è sotto attacco. Cosa fanno questi interventi? Tagliando e ringiovanimento, che sembra una parola positiva, no? È come, io ho 66 anni, se uno mi dicesse guarda faccio una cosa che ti ringiovanisce, quasi. Io direi sono contento, ma in realtà nel caso degli ecosistemi forestali è una cosa negativa, e loro purtroppo stanno andando in quella direzione. Le foreste diventano più semplificate e più deboli. Perfetto, sì, infatti prima hai accennato anche al fatto che sì, una foresta è composta dalle relazioni tra le varie specie. Quindi infatti appunto altre volte ti ho sentito parlare invece che parlare di biodiversità, parlare di biocomplessità, giusto? Sì, perché è un termine che ho diffuso io, che è questo, che riguarda non solo l'elenco, l'insieme delle specie presenti, che è già importante, che quindi può essere chiamato biodiversità, cioè in una determinata foresta, in un determinato territorio c'è un certo numero di specie, animali, mm-hmm, vegetali, fungine, eccetera. Ma quello che è ancora più importante non è solo il numero delle specie, ma il numero di relazioni che ci sono tra questi elementi. Perché la forza e la vitalità di un ecosistema forestale è legato alle relazioni. È come una comunità. Ecco, io spesso porto questo esempio, che un insieme di persone, non basta che ci siano tante persone in un determinato posto, occorre che queste persone interagiscano e che abbiano delle relazioni tra di loro, ecco, mm-hmm, perché si possa parlare realmente di comunità. E lo stesso succede con gli alberi e con gli altri animali e vegetali che sono presenti all'interno dell'ecosistema. Per cui io parlo sempre di biocomplessità, ed è la biocomplessità che determina la forza e la capacità di rispondere agli input negativi. Se noi ringiovaniamo, come questa bellissima parola che usano sempre, e noi semplifichiamo questi ecosistemi, li rendiamo più vulnerabili agli input negativi, che possono essere il cambiamento climatico, le frane, gli attacchi parassitari, il riscaldamento dell'atmosfera e così via. Ok, una domanda proprio flash prima di un altro stacco musicale. Spesso viene detto che uno dei problemi delle paleoliche è intercettare le traiettorie migratorie degli uccelli. Oppure gli uccelli, a parte proprio le traiettorie migratorie, in ogni caso ci passano, non se ne accorgono, poverini, e vengono un po' tritati. E così, appunto, domanda flash: quanto questo è un problema grave, nel senso di impattante? Cioè è una cosa più mediatica che viene detta perché gli uccelli sono belli da vedere, o è effettivamente un problema molto grosso? È sicuramente un problema molto grosso, specialmente riguardo dei grandi uccelli. Okay. Perché i grandi uccelli hanno, specialmente se hanno usano il volo planare, voi sapete che per esempio le aquile battano pochissimo. Allora, per riuscire a muoversi con il volo planare, loro diciamo sfruttano le aree di calda, l'aria calda che sale, quindi le ascensionali, e quindi loro si muovono con seguendo le ascensionali che sono proprio sui crinali. Okay, allora ecco, loro volano, si muovono anche di centinaia di chilometri. Per esempio, ci sono dei grifoni che si muovono, l'ibis che viene dall'Africa, e poi seguono i crinali. Noi abbiamo 8 coppie di aquile sul crinale del Parco Nazionale, ma loro non è che hanno diciamo la carta d'identità, il passaporto e si fermano al limite del Parco Nazionale, cioè loro si muovono lungo il crinale. Addirittura è molto bello perché si sa che la mattina si scalda più il versante romagnolo emiliano, certo. Quindi loro si trovano più in quella parte, il pomeriggio si scalda più la parte toscana, e quindi passano, transitano sempre sul crinale. Loro non hanno purtroppo la percezione della velocità della pala e dell'esistenza, se vuoi, di questa cosa. E quindi, mentre un tordo, un merlo, un uccello più piccolo ha meno probabilità di essere colpito, anche perché spesso volano più basso, soprattutto i rapaci di grandi dimensioni, avvoltoi, aquile, anche poiane, anche se stanno, sono più vulnerabili, e purtroppo più ci saranno pale eoliche e più ci sarà la morte di questi animali. Ok, tra l'altro, ecco, a proposito, mi viene in mente, non l'avevamo detto, quanto dovrebbero essere alte queste pale e quanto appunto che capire l'entità di questo numero. Vai, rispondo io. Allora, il definitivo modello ancora non è chiarito, però si parla di 99 metri all'innesto del rotore, con un diametro di 138 metri, mi sembra, del rotore. E quindi un totale di 2 campanili di Giotto uno sopra l'altro, per avere un'idea. Sì, e che per avere un'idea, paragonandolo ad altri parchi eolici già realizzati. Allora, io vorrei paragonare, perché io avevo in mente, quando io ho sentito la presentazione di questo progetto, io non ero così infervorata contro, no? Ma avevo in mente le pale di Monte Mignaio, che saranno alte 25 metri, 30 metri, e poi c'è una strada già fatta, c'è la strada che arriva lì sotto, sono su una radura, 3 palettine, sono anche una vicina all'altra, e avevo in mente quelle. In realtà si tende ora a preferire proprio le grandi installazioni, perché hanno una potenza nominale maggiore, e si dice che occupano più o meno, non è vero che occupano lo stesso spazio, perché per tenere in piedi una pala di 20 metri ci vorrà un certo pedale, per tenere in piedi una pala di 200 metri ce ne vorrà un altro, credo. Anche per portarla, esatto, su, certo. Per lì, fai conto che lì la viabilità di accesso viene fatta ex novo, devastando i sentieri CAI, questo è quanto. Volevo aggiungere una cosa sulla fauna. Un altro gruppo di animali che è molto, molto, soffrirà molto delle paleoliche sono i chirotteri, i pipistrelli. Ah, okay. Il pipistrello è i pipistrelli in generale sono dei grandi regolatori, no? Sono comunque, fanno parte, aiutano proprio a regolare tutto il ciclo della vita fra insetti e animali più, più grandi, no? E non è tanto una questione meccanica per il pipistrello quanto una questione che il pipistrello essendo estremamente sensibile a emissioni a bassa frequenza può veramente morire, esplodere in un certo senso, usando un'immagine brutta, in conseguenza alle emissioni a bassa frequenza di queste delle paleoliche. Che fra l'altro sembra anche che diano disturbi anche all'orecchio umano, al senso grazie. Dell'equilibrio, generano agitazione, appunto disturbi dell'equilibrio, malessere in generale, il malessere di chi sta vicino alle paleoliche. E un'altra cosa da aggiungere, è stato osservato un crollo del numero di insetti impollinatori in prossimità dei parchi eolici. Questo è un danno catastrofico, direi. Ok, facciamo un altro stacco musicale e ritorniamo in voce fra poco. Thank you. Antadam, Afriki, Jeroi, di Antadam, Kalawaina, Armagabundi, Serendi. Allora, qui questa puntata affascinante e preoccupante del Ponte Radio continua. Manderei adesso un intervento che invece abbiamo registrato, perché appunto se no poi rischiamo di non sentirlo tutto. Non dico niente, tanto c'è anche le presentazioni all'interno dell'intervista. Collegamento con appunto Tatiana Bertini, la quale ci parlerà all'interno del grande argomentone di oggi, di questo Ponte Radio del 30 maggio, ci parlerà di comunità energetiche rinnovabili, vedremo solidali e non solidali, ci spiegherà poi meglio lei di cosa si tratta. Ti passo subito la parola, Tatiana, se ti vuoi un minimo presentare e poi andiamo. Allora, sì, io faccio parte di un comitato, il comitato No Eolico Industriale Firenzuola, che è nato per contrastare la devastazione che viene fatta sui crinali appenninici a causa della devastazione che vorrebbero fare per i progetti di eolico industriale. Come componente del comitato faccio anche parte della coalizione TES, Transizione Energetica Senza Speculazioni. Allora, prima di parlare direttamente delle comunità energetiche, mi interessava anche fare una piccola premessa per sottolineare alcune cose. Intanto è importante che usciamo dal sistema speculativo energetico, perché come abbiamo visto le nostre bollette purtroppo passano dalla speculazione energetica determinata dalla borsa. Con gli impianti industriali di energie, tra virgolette, che loro chiamano rinnovabili, ma quando si distrugge l'ambiente di rinnovabile non c'è niente, non usciamo da questa macchina speculativa. Un modo per uscirne può essere l'autoproduzione e l'autoconsumo energetico, in una modalità anche che vada verso il risparmio energetico, perché bisogna uscire dagli sprechi anche nel consumo di energia. Gli impianti industriali, come sono progettati ad oggi, loro li vendono per una transizione energetica, ma non fanno transizione energetica, o almeno non fanno una transizione ecologicamente sostenibile, perché per attuarli, io parlo in particolar modo degli impianti eolici, ma così si può parlare anche degli impianti fotovoltaici fatti a terra, anche dell'agrivoltaico, si distruggono ambienti e si distrugge la biodiversità. Nel caso degli impianti eolici, boschi e foreste, cementificando e convertendo questi territori, vengono convertiti, poi vengono declassati da territori boschivi a industriali. E in questo modo si distruggono i principali assorbitori, come sappiamo, nei boschi di CO2. Oltretutto, questi boschi contribuiscono anche a limitare il cambiamento climatico, perché raffrescano la temperatura ambientale, ma non soltanto, contrastano il dissesto idrogeologico, oltre a facilitare la filtrazione dell'acqua nel sottosuolo e di conseguenza nelle falde acquifere. Per cui vediamo come nella costruzione di un impianto eolico in una zona che non è energivora, ovvero non ha bisogno di energia, c'è una distruzione pazzesca. Oltretutto, questa energia prodotta, visto che non viene consumata in luogo, viene immessa in rete con sprechi di dispersione, perché c'è un tot di dispersione di questa energia nell'avanzare nella rete, per cui si capisce che di ecologico e di sostenibile non c'è proprio niente. E come si è detto, la stessa energia poi non c'è neanche risparmi, perché viene immessa nel mercato e è soggetta alla speculazione della borsa. In questo modo si distruggono anche le vocazioni economiche dei territori. Si pensa ad esempio al turismo lento, a tutte le persone che percorrono la senteristica, turistica e a tutto l'indotto economico che c'è dietro a questo turismo. E per contrastare queste distorsioni occorre attivarsi attraverso autoproduzione e autoconsumo, e questo può essere fatto anche nei condomini con pannelli fotovoltaici sui tetti o anche in capannoni industriali, sul tetto del capannone o su come copertura di parcheggi, e dare vita a quella che dicevi te, Addur, a queste comunità energetiche che possono essere di due tipi. Possono essere comunità energetiche rinnovabili semplici, ovvero di libera imprenditoria, o prevedere nello statuto la possibilità di supportare con i guadagni, gli introiti derivanti dagli incentivi o dai guadagni dall'emissione in rete di energia, possono supportare famiglie e imprese, ad esempio in povertà energetica. Ora parlo, allora, la differenza tra le CER e le CERS. Allora, le comunità energetiche rinnovabili semplici nascono comunque entrambe per favorire il consumo locale di energia rinnovabili, autoprodotta dai cittadini. Questi cittadini possono essere singoli come produttori o associati, comunque ne fanno parte sia produttori che consumatori. E queste comunità nascono senza scopo di lucro, sia che siano CER, sia che siano CERS. Allora, la CER solidale dà i contributi derivanti dagli incentivi, li dà per finalità solidali, come abbiamo previsto, detto. L'altra invece li dà con finalità sociali. Ad esempio, la finalità sociale potrebbe essere, entrambe le danno sociali e solidali. La CER nello statuto ha finalità sociali, ovvero ci potrebbe essere la costruzione di un altro impianto di energia rinnovabile, oppure, non so, mettere le colonne per le biciclette elettriche, e questo viene deciso annualmente dal consiglio di amministrazione. Come evolvere in caso di comunità energetica rinnovabile semplice gli incentivi, come investirli. Comunque le comunità energetiche rappresentano un metodo democratico per la transizione energetica, perché sono le persone, oltre a basarsi su autoconsumo e autoproduzione di una comunità, sono le persone che all'interno della comunità decidono quali fonti di energie rinnovabili utilizzare, a seconda anche delle caratteristiche del territorio, e non con lo scopo di creare profitto, ma con lo scopo di consumare l'energia, magari verso l'autosufficienza completa energetica. Certo. Scusa se ti interrompo, quindi appunto sì. Una delle differenze fra CER e CERS è come usare i soldi degli incentivi, giusto? Dicevi, quindi nel caso della CER usare per, come hai fatto esempi di usi sociali, nel caso invece di usi solidali che esempi ci puoi fare? Allora, l'uso solidale può essere deciso magari, che, non so, ad esempio tramite ISEE o quant'altro, da statuto. In genere nella CERS è previsto da statuto come impiegare questi soldi, può essere deciso di impiegare questi incentivi per le persone che hanno una povertà, noi si dice energetica, comunque hanno una povertà economica, non soltanto le persone ma anche le imprese, anche le ditte. Si può con le CERS anche decidere di dare un supporto a quelle ditte che sono momentaneamente in crisi. Si parla di povertà energetica perché il costo dell'energia è sempre più ampio, il costo della vita aumenta, per cui le persone o le attività che hanno un basso introito risultano, tra virgolette, povere anche dal punto di vista energetico. Okay. Una cosa importante è che per partecipare alla comunità energetica come produttore, sia che sia solidale che non lo sia, prima era necessario entrare nella comunità energetica e poi diventare produttore. Adesso la normativa si è ammorbidita e si può far parte di una comunità energetica anche se si è costruito l'impianto prima, ma si intende ad esempio potenziarlo. Oltretutto ci sono fondi sia del PNRR nazionali e regionali possibili, ci sono fondi, bandi che non è semplice starci dietro perché sono in continua evoluzione. Però ora ad esempio ci sono dei fondi che se viene richiesto, viene mandato un progetto entro ottobre 2025, fondi del PNRR danno la possibilità di avere il 40% del costo dell'impianto a fondo perduto e l'altro 60% con gli sgravi fiscali del 50%. Per cui, insomma, è un momento importante per andare in questa direzione. Quella poi delle CERS o anche delle CER è un'opportunità anche per gli enti locali, perché anche un comune può costituire una comunità energetica, magari solidale, visto che potrebbe avere introiti propri per rispondere a esigenze sociali delle persone. E i comuni aggregati insieme possono fare distretti energetici, ovvero questi distretti energetici sarebbero dei sistemi integrati per rispondere nel migliore dei modi alle esigenze del territorio, ognuno con la propria vocazione energetica. Non so, da una parte c'è più vento e si mette il mini eolico in un comune, in un altro magari si mette il fotovoltaico, ci si scambia l'energia in eccesso, magari uno la produce maggiormente nelle ore serali, l'altro nelle ore diurne, e si mette in rete soltanto quello che avanza da questo scambio. Per cui le opportunità e le possibilità sono molteplici per cercare di essere autonomi il più possibile nella produzione di energia, in particolar modo nella produzione nel luogo di consumo di energia. Non so se, se vuoi... Ok, è un buon quadro, tra l'altro anche molto ottimistico in un certo senso, quindi fa anche piacere. E, ti volevo chiedere se allora a questo punto ci riesci a fare un po' un sunto, diciamo, burocratico di come arrivare a instaurare, per esempio, una CERS, quindi Comunità Energetica Rinnovabile Solidale. Allora, come CERS, allora noi abbiamo fatto delle iniziative pubbliche, no? E abbiamo parlato di entrambe. Secondo me è anche importante parlare sia di CER che di CERS, di allora, entrambe le possibilità e di entrambe le esperienze. Okay. Abbiamo portato ad esempio a Firenzuola in un'assemblea pubblica nell'autunno del 2024 l'esempio di Siena Energia, dove è venuto Alessandro Vigni a spiegarci tutto l'iter burocratico, perché non è facile da spiegare. Però la cosa importante è che Alessandro Vigni ha anche scritto un libro che mi sono ripromessa di leggere a breve: Democrazia energetica, comunità energetiche rinnovabili, cittadini protagonisti della rivoluzione energetica. In questo libro lui ha anche un appendice dove spiega come è arrivato a Siena Energie, per cui tutto l'iter burocratico che è passato, anche proprio con l'intento di essere uno strumento informativo propagare questa democrazia energetica, basata, come dice lui, sulla produzione diffusa dell'energia, in contrasto alle grandi centrali in mano a ristretti gruppi che esercitano magari un potere enorme creando grossi profitti sulla materia energetica. Certo. E poi abbiamo avuto anche in un convegno che abbiamo fatto il 25 gennaio a Borgo San Lorenzo di TES, abbiamo avuto un altro esempio, questa volta di comunità energetica rinnovabile solidale, che io consiglio, che potete vedere, l'evento può essere rivisto anche sul sito di TES, della comunità energetica rinnovabile solidale Illuminati Sabina. Questa comunità energetica è nata da una comunità che era già aggregata, una comunità mutualistica e solidale, che aveva l'obiettivo già da prima di contribuire ad uscire dal fossile attuando buone pratiche per la riduzione dei consumi energetici, finché non è passata proprio alla produzione di energia. Come hanno costruito loro questa comunità energetica si vede anche su Attac, su YouTube, sulla pagina di Attac, se qualcuno si volesse informare maggiormente. E loro si sono basati nel loro statuto, nel loro regolamento, anche di premesse politiche valoriali importanti. Hanno dichiarato un'associazione libera e indipendente, a confessionale, a partiti antirazzista e antifascista, proprio con l'obiettivo di riuscire ad arrivare a produrre tutta l'energia di cui loro possono avere bisogno, senza sprechi, attraverso le comunità energetiche, e non soltanto, dando anche la possibilità di posti di lavoro per giovani persone più fragili, che magari soggetti fragili hanno più difficoltà a trovare impieghi. Scusa, in questo caso intendi posti di lavoro dovuti al fatto che sono una comunità energetica, cioè quindi lavori nelle centrali elettriche, o ti riferivi a qualcos'altro? Sì, sì, lavori proprio nella gestione della comunità energetica. Ok, molto interessante. Sì, e questi lavori, ora non so se sei a conoscenza anche della comunità energetica di Firenzuola. Sì, infatti ti volevo chiedere se ci dici due parole anche su questo. Allora, perché a Firenzuola è nata anche lì una comunità energetica, è una share semplice, però è stata importante perché è nata dall'imprenditoria di giovani ragazzi, si sono inventati, diciamo, questo lavoro, perché comunque anche per la gestione di una comunità energetica, la gestione fatta bene di una comunità energetica ha bisogno anche di posti di lavoro, insomma di persone che stanno dietro agli incentivi, alla parte contabile, a tante cose, insomma anche alla parte progettuale. È ancora agli albori, stanno effettuando il primo allaccio al GSE, per cui stanno partendo ora come produzione di energia, però è importante i passaggi, secondo me, che stanno facendo, perché stanno trovando gli accordi con gli istituti di credito e con gli installatori locali per poter installare questi impianti. Non soltanto tengono il sito aggiornato, anche in base a tutti gli incentivi cui uno può contare, insomma, per mandare avanti il tutto. E se si vuole in qualche modo cambiare queste politiche energetiche devastanti, bisogna cominciare dal locale. Bisogna cominciare dal locale, e la cosa migliore è che le persone che vivono nei vari territori in qualche modo comincino ad attuare un percorso diverso verso un'autoproduzione, un autoconsumo e verso il risparmio, e non continuare a stare nel mercato speculativo energetico di oggi. Certo, allora avrei due domande, ma te le faccio insieme perché magari appunto sono condensabili forse. Una è in quali condizioni, diciamo, geografiche, per esempio anche abitative, sono state, hai visto comunità energetiche nascere? Quindi mi sto riferendo al fatto se si tratta di città grandi o se invece sono piccoli centri abitati, magari più nelle montagne. E te lo chiedo perché mi chiedo, appunto, e arrivo alla seconda domanda, dal punto di vista di realizzazione, quindi tecnico, quanto siano impegnative queste comunità energetiche per il territorio. Perché? Perché tutti gli impianti eolici di cui appunto in questa puntata odierna stiamo parlando, che sono questi impianti industriali mastodontici, sono molto problematici e infatti criticati spesso proprio per questi aspetti di realizzazione e anche poi di manutenzione tecnici, quindi appunto distruggere comunque una parte di foreste per creare tutta la viabilità, e poi, che poi si porta dietro tutta una serie di problemi idrogeologici, come già abbiamo detto. Quindi questa è un po' la domanda per capire il contesto e anche le dimensioni, quindi, che queste comunità energetiche, secondo te e secondo chi le ha già messe in atto, possono avere, possono diciamo funzionalmente avere. Allora, una comunità energetica per essere tale deve essere piccola, perché io devo produrre dove consumo. Per cui le grandi comunità energetiche, magari nazionali, cioè non hanno il che della comunità effettiva, anche perché si parla di politica energetica, per cui è il territorio che dice noi possiamo fare questo, oppure la vocazione è questa, questo non lo facciamo perché magari ci stronca la nostra vocazione economica. Per cui è democratica, e per essere democratica deve nascere dal basso e deve nascere nei territori con le persone che vivono in quel territorio. L'aspetto burocratico non è semplice, però c'è la disponibilità in tutte queste comunità energetiche, anche che ho citato, a parte quella di Firenzuola che è nata adesso, però sia in Siena Energie sia nella Illuminati Sabina c'è proprio la disponibilità a seguire e a tutorare altre persone che vogliono intraprendere questa strada. Certo è, se gli enti locali si facessero attori in prima persona della costruzione effettiva di queste comunità energetiche, le cose sarebbero più semplici. Però anche lì ci vogliono, negli enti locali, persone sensibili e un ufficio tecnico capace di intraprendere questa strada. Politici sensibili, cioè ci vuole queste due cose, la possibilità di avere politici sensibili a questo tema e che vogliono investire, oltretutto ora, di incentivi, in particolar modo per edifici pubblici ne possiamo trovare molti, per cui devono essere trovate, e un ufficio tecnico che abbia il tempo, anche a volte sono piccoli gli uffici tecnici, di dedicarsi a questo. Però di possibilità di essere tutorati in questo percorso ce ne sono molte. Ok, quindi praticamente siccome, come mi dicevi all'inizio, queste comunità devono per forza di cose essere comunità di dimensioni ridotte, poi tutto l'impatto della realizzazione e poi anche della manutenzione dopo non risulta essere un problema in questo caso, se ho capito bene. Non risulta essere un problema, anche okay, perché si fanno, va bene, impianti fotovoltaici, ma su tetti delle case, su capannoni, a copertura di parcheggi, cioè senza impattare il territorio. Se si decide di fare l'eolico, viene fatto un micro o un mini eolico, non l'eolico industriale. Anche se viene deciso di utilizzare altre energie rinnovabili, sono comunque piccoli impianti che non impattano come gli impianti industriali energetici. È tutto ridotto alla necessità del territorio, considerando la vocazione del territorio, sia dal punto di vista energetico che economico. Certo. Per cui, cioè, sarebbe, se si riuscisse ad andare in questa direzione, sarebbe il modo di poter fare transizione energetica davvero ecologica e sostenibile a 360 gradi, insomma. Certo. Un'ultimissima domanda e poi, se hai qualcosa da aggiungere in fondo, ti lascio la parola. Citavi il fatto che se una comunità energetica fosse comunità energetica rinnovabile solidale, se fosse iniziata da un comune, in prima persona potrebbe anche ritornargli comodo, appunto perché poi reinvestirebbe all'interno del comune stesso. Questo lo dicevi perché hai già un esempio in mente di una condizione del genere o perché potrebbe essere auspicabile? Allora, purtroppo non ce l'ho in mente, però potrebbe essere auspicabile. Io ad esempio, abitando nel Mugello, potrebbe essere che ogni comune fa la sua comunità energetica in base alla propria vocazione, la propria possibilità e in base alle esigenze che ci ha di fatto. Poi l'unione dei comuni del Mugello magari funge da distretto energetico. Cioè, questo qui sarebbe un contesto geografico ottimale per portare avanti una politica energetica del genere. Per cui sarebbe da attuare, da intraprendere questa strada. Perché di fatto le comunità energetiche, ad esempio l'unione dei comuni, ha già una comunità energetica sua, ma è fittizia perché di fatto esiste solo sulla carta. È un manifesto di intenti, basta. Non è stato attuato niente. Ho capito. Allora, ti ringrazio intanto tantissimo per tutto questo quadro e direi, prima di salutarci, se vuoi puoi aggiungere, se ti viene in mente, qualche ultima parola. Ma la parola che mi viene in mente è l'appello di dire a tutti che prima di fare tante scelte politiche oggi, visto anche la situazione ambientale in cui ci troviamo, anche visto il cambiamento climatico, la cosa principale deve essere la salvaguardia del territorio e della biodiversità. Non possono essere fatte politiche che minano all'integrità di tutto questo, perché ne va a discapito della nostra buona sopravvivenza e della buona sopravvivenza in particolar modo delle future generazioni. Già sono stati fatti tanti danni con discariche e quant'altro, con lavori molto impattanti. È l'ora di smettere di impattare in questo modo ambiente e biodiversità. Magari è venuto il momento di curare dove abbiamo impattato troppo, anche per lasciare alle generazioni future una ricchezza, altrimenti cosa gli lasciamo? Soltanto devastazione? Insomma, certo. Il mio appello è questo. Benissimo, siamo a maggior ragione contente e contenti di passarlo su questa radio allora. Ti ringrazio davvero Tatiana Bertini e a risentirci per futuri aggiornamenti e chissà, grazie. Grazie. Grazie tante anche a te, Aldo. qua manani a me goi di dam se mendi goi io der gonda qua manani a me afriki je se mendi goi io der gonda qua manani a me goi di dam se mendi goi io der gonda goi di antadam mali goi io goi di antadam kala wainda har maga bunni se mendi goi di antadam Eccoci qua, ritornate in voce per l'ultimo piccolo slot di questa puntata di Ponte Radio sull'eolico industriale nel Mugello. E rispetto alla domanda sul pad, di cui ricordo il link per un'ultima volta, direttawombat.vado.li, che appunto c'è stata scritta prima su proposte per invece usare un eolico in modo più rispettoso e sensato, ecco, abbiamo iniziato a rispondere con quest'ultima, con questa intervista avete appena sentito. Quindi l'eolico sì, come in generale le rinnovabili, si possono usare quando si fa in modo ragionato, senza avere come primo obiettivo l'introito economico di un'azienda o anche dei comuni in un certo, insomma, in parte. Quindi uno dei modi può essere appunto, perché no, delle comunità energetiche, ma non è l'unico. Quindi in questo piccolo quarto d'ora che ci rimane, che è un po' tirato, effettivamente abbiamo programmato una mezz'ora, ma oggi siamo andati un po' lunghi, quindi in questo piccolo quarto d'ora magari proviamo a parlare di altri modi ancora per riuscire a sfruttare le energie rinnovabili. E quindi ripasso di nuovo la parola a Valeria. Io mi volevo riallacciare un attimo a quanto detto da Alessandro Bottacci sull'acqua, sul ruolo delle foreste nell'acqua, eccetera. Dal momento che in un impianto che viene costruito ex novo, facendo strade, eccetera, eccetera, se volete vi do anche i numeri degli ettari che saranno occupati da questo e comunque con suolo impermeabilizzato, da uno studio commissionato da Italia Nostra a tecnici qualificati, si viene a sapere che a seguito della costruzione di questo impianto, ogni 15 minuti di pioggia a media intensità, 465 tonnellate di acqua non verranno assorbite dal terreno. Quindi non solo non finiranno nelle falde per essere pulite, poi somministrate dolcemente con i loro tempi, mineralizzate e tutto quanto, ma si riverseranno da 1000 metri d'altezza a valle con un'enorme energia distruttiva, trascinando anche quantità di detriti e anche inquinanti lasciati dai lavori. Questo era intanto per cominciare a dare un numero. Quindi 465 tonnellate di acqua che precipitano a valle ogni 15 minuti senza essere trattenute dal bosco. Allora, semplicemente per dare un'idea del consumo di suolo, perché qui si va a parlare anche di consumo di suolo vero e proprio, del suolo appunto ne abbiamo già accennato anche in precedenza, il suolo è un essere vivente, il suolo ha un ruolo fondamentale proprio nel sostenere la vita stessa. E quindi il consumo di suolo è un parametro che viene regolarmente monitorato, viene fatto, io ho trovato appunto alcuni dati che ora vi dirò, proprio sul rapporto ISPRA, che gli interessati io consiglierei di andarlo a vedere, è il rapporto ISPRA sul consumo di suolo 2024, li ho presi proprio di lì. Comunque questi sono, è semplicemente, tanto la butto lì, immaginate che complessivamente, va bene, il quello che rimarrà sul suolo, quello che occuperà il cantiere, e quindi anche che rimarrà in parte rimarrà proprio cementificato e impermeabilizzato. Immaginate un campo di calcio, ok? Un campo di calcio sono mediamente 7140 metri quadri. Immaginate 12 campi di calcio. Rimarranno 83.037 metri quadrati complessivi tra viabilità di cantiere e piazzole. Quindi questi sono un po' alcuni numeri per darvi proprio l'imponenza, no? Quindi della, certo, della strage che verrà compiuta su questi crinali. Ecco, e quindi allora, servendosi di questi numeri, soprattutto questo riguardo al consumo di suolo che giustamente ci ha appena dato, sì, sorge, a me quasi verrebbe a dire spontaneamente, la domanda: ma perché allora non si mette l'eolico o il rinnovabile in generale che sia dove già c'è stato consumo di suolo, visto che per noi umanità, e non solo per noi, aumentare ancora il consumo di suolo non crea altro che danni. Ma fra l'altro esistono anche proprio direttive anche in questo senso. Ecco. Cioè esistono qui sembra di vivere in un mondo di schizofrenici a cui hanno sospeso l'aloperidolo. Allora, da una parte viene richiesto di aumentare dal 15 al 30% le aree protette in Toscana. Va bene, io mi faccio riferimento alla Toscana. Sempre dalla stessa parte viene auspicato un azzeramento del consumo di suolo. Viene richiesto, insomma, vengono fatte delle richieste e dall'altra parte si distrugge tutto. Cioè si fa in modo di consumare suolo, si fa in modo di creare isole di calore. Esistono studi a proposito delle variazioni di temperatura dovute all'installazione di impianti industriali eolici. Un impianto che è ora in fase di dismissione in Austria, cioè l'hanno studiato questo, hanno raccolto i dati della temperatura rispetto alle zone circostanti, che ha funzionato dal 1989 a oggi, e nella sequenza temporale è venuto fuori che in quella zona lì un aumento della temperatura di 2,7 gradi, con una tendenza al secolo 7 gradi e rotti, una tendenza, cioè diciamo in un secolo dove c'è un impianto eolico la temperatura rispetto alla zona circostante aumenterebbe di 7 gradi, quindi alla faccia del proteggere il clima, no? Il discorso, perché sono andata a vedere il consumo di suolo? Perché il consumo di suolo mi dà anche dei dati che possono servire per capire dove possono essere piazzate queste benedette rinnovabili, va bene? Noi praticamente abbiamo in Italia, calcolando superfici già coperte, esclusi i centri storici, luoghi particolari, edifici pericolanti, ripeto, esclusi, parcheggi, infrastrutture, aree dismesse e già impermeabilizzate, cioè non coperte ma eventualmente copribili, ok? Si sta parlando solo di tetti, superfici già coperte, dai 740 ai 992 chilometri quadrati, che potrebbero, se coperte, adibite a fotovoltaico, generare dai 70 ai 91 gigawatt. Quando la richiesta al 2030 sono 74 gigawatt di nuove installazioni, quindi basterebbe coprire sti tetti. Sì. Cosa vai a toccare? No, vai a coprire suolo agricolo con l'agrivoltaico a terra, vai a devastare, vabbè. Non ci sono alternative alla protezione della natura se non proteggere la natura, anzi favorirla, perché è molto più quello che può dare rispetto a quello che ci prende. Quindi questi erano dati abbastanza importanti da tenere presente. Quindi questi obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima potrebbero essere soddisfatti su aree già edificate. senza contare tutto, appunto, senza contare le alternative all'impianto eolico industriale. Cioè ci può essere anche un mini micro eolico. Certo. Ci sono delle strutture che captano vento, ci sono delle sfere. Sono delle sfere con ondulazioni in tutte le direzioni, per cui lo prendono sempre un pochino di venticello, un po' di qua, un po' di là. Certo, non fanno tutta questa gran produzione millantata, ripeto, millantata, perché l'Italia in Europa è al quinto posto come potenza nominale installata di eolico, al quinto posto in Europa. Come produzione è ultima, quindi non sempre la potenza nominale è quella che produce, certo, anzi quasi certo. mai. Soprattutto quando, come nel caso del Monte Giogo di Villore, si va avanti con i dati anemometrici che sono ancora secretati. Ecco, questo è un altro paradosso. L'ingegnere responsabile del progetto ha millantato una velocità media del vento di 7,8 metri al secondo, diciamo, facendo due calcoli sono circa 30 km all'ora. Si dimentica una cosa l'ingegner Giusti, e forse non dovrei insegnarglielo io, che nel caso del vento, se tu mi dai una velocità media non ha nessun interesse, mi devi dare una costante nel tempo, mi devi dare una misura di dispersione, questo un qualsiasi tecnico lo dovrebbe sapere. Mi devi comunque dare una misura e mi devi dire quanto è veloce e quanto tempo questo vento è veloce, perché dire una media certo. non mi vuol dire assolutamente niente. Sì, qui purtroppo oggi non abbiamo tempo, ma si aprirebbe davvero un altro sipario del che sarebbe veramente da approfondire, cioè cosa sono i dati che troviamo, cosa sono i dati che vengono forniti e quelli che invece non vengono forniti, come accennavi. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo Ponte Radio, spero interessante anche per voi all'ascolto. In conclusione, quindi, daremmo dei contatti per appunto rimanere aggiornate e aggiornati su le attività del comitato, attività di TES e anche, ti rilascio di nuovo la parola, una petizione di cui metteremo tutti i link sulla pagina del podcast, come sempre sul nostro sito. Se volete aiutarci potete firmare questa petizione online molto semplicemente, in un qualsiasi motore di ricerca potete digitare petizione eolico Villore, è il primo link che vi viene fuori. Petizione eolico Villore, firmate e diffondete, grazie. Dai. E poi invece si diceva del sito di TES per anche semplicemente conoscere meglio la realtà, e quindi ve lo dico subito, ecco, coalizionetes.com. Invece per il Comitato Crinali Liberi come si può avere, diciamo, aggiornamenti o comunque contatti con allora, voi? Il Comitato Crinali Liberi ha una pagina Facebook, purtroppo io non sono su Facebook, per cui non vi so dare l'indicazione. Comunque c'è anche una mail che è ctcm.crinaliliberi@gmail.com. Perfetto, questo era decisamente doveroso. Allora, vi salutiamo con gli ultimi secondi di musica. Prima però vi annuncio che potrebbe apparire una seconda puntata del Ponte Radio, sempre a cura di Radio Wombat, in cui continuiamo questo argomento da altri punti di vista, parlando di altri aspetti della questione che appunto spero che abbiamo reso bene essere veramente veramente complessa e se si volesse spiegare in tutte le sue sfaccettature veramente lunga. Che dire, salutiamo tutte le radio del Ponte Radio, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno seguito, ci risentiremo poi con Radio Wombat, ma settimana prossima sicuramente sempre venerdì dalle 1 alle 3 per il consueto Ponte Radio. Buona continuazione di giornata a tutte e tutti. a strange thing that drains inside. Why'd you think you're wrong? Like a strange fate that comes and goes, but we can never hold on. Whatever comes to your life, whatever comes to your heart, if you can learn the rules of time,